24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo come la riforma. Uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio. E lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera. Per il presidenzialismo il cancellierato alla tedesca. Il problema alla Sartori. E vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese. I bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. E noi vogliamo, elettori, il bagno alla turca. Come sta, presidente? Voi come state? Mi vedo stanchi. È da tanto che non la vediamo alla Camera. Eh sì? Eh beh. Le è mancata? Assolutamente no. Grazie. Silvio Berlusconi, ieri in Graspolvero, no, alla Camera, mi è mancata la Camera, no. Voi vi vedo un po' stanchi, vedesse me stamattina, vedesse Peter Bescapè stamattina. Invece Miriam Lucchetti è più riposata, un po' più rilassata, devo dire. Vabbè, insomma, fa effetto più su noi uomini, caro Peter. La stanchezza, la sveglia alle 5, va bene, sono le 6:33 minuti. Siamo in forma come Silvio Berlusconi ieri alla Camera. E allora possiamo dire buongiorno a tutti con 24 mattino. Oh, ci siamo, ormai ci siamo, apriamo il Parlamento perché siamo a un passo. Il caffè volentieri. Le riforme sono lì. Siamo alla 59esima settimana decisiva, ma ci siamo a un passo, all'ultimo miglio, ormai è fatta. Queste sono le parole che secondo i giornali Renzi dice ai suoi, il ministro Boschi dice ai suoi, è fatta, è l'ultimo miglio. Certo, c'è poi su un retroscena di Repubblica Matteo Renzi che dice sì, è fatta quasi, ma con quelli là non vai mai a fidarti. Quelli là poi sarebbero, che ne so, Berlusconi, Forza Italia, insomma, quelli con cui fare l'accordo. Ma ci siamo quasi. Allora voglio salutare Massimo De Manzoni, che è il vice direttore di Libero. Come stai, Massimo? Eccoci. Buongiorno. Ci siamo a quest'ora. Saluto anche Alessandro Giglioli dell'Espresso e il suo Piovono Rane. Buongiorno Alessandro, come va? Ciao Alessandro, bene, dai, chi si lamenta è un vigliacco, dai. Bella questa, chi si lamenta è un vigliacco. Questa è di un mio amico, non è mio, che poi se mi sente mi dice che gli ho rubato la citazione. Chi si lamenta è un vigliacco non è male. Allora, sei pronto? C'hai il prosecco, lo spumante? Il prosecco alle 6 del mattino sarebbe... No, in frigo, pronto. Per stappare le riforme. Ma più che altro c'è l'olio di ricino, visto la riforma del Senato che stanno facendo. Accidenti, vai. L'olio di ricino, addirittura. E cosa mi sono perso? Non so, vogliono fare 100 senatori, non sono più tutti sindaci così, ma sono un po' più importanti di quello che si pensava prima. Perché olio di ricino? No, vabbè, una battuta, poi non, per carità, che non mi dicano che paragono a Renzo Bottolini, non volevo dire questo. No, nessuno l'ha pensato con questa battuta. Dico che se proprio devo brindare, brindo con qualcosa di scadente, perché è una riforma molto scadente. Se vuoi entriamo nel vivo, non so se alle 6:35 nelle lenzuola o davanti allo specchio con lo sfumo da barba gli italiani vogliono sapere perché la riforma del Senato è scadente. Guarda, credo neppure alle 8:30 o alle 9 o alle 10. Se vuoi l'argomento, se mi tiri dentro io sono pronto. No, c'è un argomento più noioso in questi giorni sui giornali di questo, che è la disputa tra le toghe a Milano con il CSM che decide con lettere di Giorgio Napolitano. No, questa forse batte come noia la questione della riforma. Sì, abbastanza. Direi che però la prima inciderà sulla democrazia, la seconda forse un po' meno. Comunque, forse un po' meno, cioè sono risse da procura, insomma, se la vedono un po' tra loro. Insomma, quando interviene anche il Presidente della Repubblica un po' meno. Dici Massimo, ma sì, ma ho capito. Allora, l'argomento magari è importante, no, ma è noiosissimo. No, no, no, ma puoi parlarne, cioè poi anzi rendicelo vivace, dici perché è importante e qui vince qualcosa se ci rende vivace. No, Massimo, spiega agli italiani perché è importante la sfida tra il capo e il vice capo della Procura di Milano. Beh, importante lo è perché quella è la procura più importante d'Italia, quella dove si sono svolti processi micidiali e molto pesanti anche dal punto di vista politico. Le compensazioni che si fanno tra di loro non sono di piccolo conto, ed è intervenuto in prima persona il Presidente della Repubblica dicendo preventivamente chi deve avere ragione e chi deve avere torto. Per cui, una certa importanza ce la potrebbe anche avere, dopodiché alle 6:30 del mattino. L'unica cosa di cui si può parlare forse è l'eliminazione della Spagna dei mondiali. Non lo so, la buttiamo proprio sul calcio, questo non lo so. Ecco, però, Giglioli, che ne pensi dell'eliminazione della Spagna dei mondiali? Me ne frega assolutamente niente. Vedete, mi interessa di più la riforma del Senato. Come la giri, la sbagli? Questo. No, Lino, sai che ti voglio bene, è che io seguo poco il calcio, lo seguivo un po' quando l'Inter andava bene, adesso che l'Inter va male, della nazionale non è che ne frega poco. Inghilterra, quindi sono veramente fuori quota. Non fa più moda snobbare così i campionati. Ma io lo facevo anche prima che facesse moda, lo posso fare anche dopo che non fa più moda. Almeno coerente. Abbiamo trovato l'unico che non ha visto la partita dell'Italia, mentre abbiamo Massimo Levanzoni che è campione d'Italia col Chievo. L'ultima volta ti avevo detto, guarda che forse vincerà il Chievo, le giovanili, no? La primavera. Avete i campioni d'Italia. Abbiamo vinto, non ho potuto festeggiare con la Spinelli perché non ha voluto, ma abbiamo vinto. Con la Spinelli, non voleva festeggiare con Barbara Spinelli. Non l'ho capita, me l'ha spiegata che non l'ho capito. Non lo so, voleva fare una stoccata così a Barbara Spinelli che è molto... No, perché quando ne abbiamo parlato tu mi avevi chiesto, ma con chi lo festeggerai? Mi mancava una puntata. Era il momento in cui Barbara Spinelli aveva deciso di andare all'Europarlamento. Il suo autoribaltone. Va bene, allora dai, rallegriamo un po' con Berlusconi che ha convertito un comunista a Cesano Maderno, in bocca con il gioco dell'aeroplanino che io faccio ai bambini, arriva un carico e poi ha convertito un comunista, Berlusconi. E col sistema dei bambini sta arrivando un aereo carico di succo di pera e lei l'ho fatto mangiare. Finisco e c'è un signore corposo che sta vicino a suo padre, 10-12 metri di là, viene lì e mi dice: Presidente, io da 30 anni ho sempre votato comunista. Dopo averla vista qui e aver visto in lei così tanta umiltà e buona volontà, da questo momento in poi voterò sempre per lei. Eccolo lì, vabbè, Massimo Levanzoni, questo è un gran classico, se ne è inventate parecchie così negli anni, per carità, non voglio mettere in dubbio la parola del presidente Berlusconi. Ma non c'è bisogno di metterla in dubbio, è talmente sputtanata. No, dai, però in realtà Massimo, vorrei chiedervi questo, in realtà incombe, Massimo, poi Alessandro, Massimo Levanzoni, incombe venerdì la questione del processo Rubi, quindi è focalizzato su questo Berlusconi o davvero sulle riforme? Tutti lo danno focalizzato molto sul processo e con qualche ragione. Ritorniamo alla domanda iniziale: perché è importante uno dei motivi del contendere nella Procura di Milano riguardava proprio il processo Rubi. Comunque è importante, il processo Rubi è evidente per Berlusconi perché rischia grossissimo. In primo grado mi pare 7 anni. In appello, anche se fossero di meno, si vanno a sommare con la condanna. Ma rischia che cosa? Perché in realtà in carcere non ci va per l'età. Intanto non è così automatico, lo si dice, ma non è proprio così. In Italia non c'è un automatismo di età e non carcerazione, è una questione affidata ai tribunali di sorveglianza, ai giudici, e quindi ci si può anche andare, ma al di là di questo rischia. Al di là del fatto in sé, insomma, che non è per uno che fa politica proprio un fiore all'occhiello essere condannato per concussione e prostituzione minorile, perché di questo si tratta, rischia comunque che l'estromissione dei pubblici uffici diventi perpetua. Sì, e poi si rischia anche questo, e vorrei capire anche da Giglioli, si rischia che, ieri leggevo sul Foglio, dice, a quel punto dovesse arrivare una condanna, come si fa a fare le riforme con una persona che, vabbè, certo già sta scontando i servizi sociali, ma a questo punto sarebbe addirittura con una condanna ulteriore, no Giglioli? Oppure, che la condanna c'è già, anche se minore in termini di anni, si possono fare comunque? Secondo me me da un punto di vista politico, come dire, la condanna, la probabile, possibile condanna di Berlusconi anche per questi reati, non che aumentare quel lentissimo ma inesorabile processo di tramonto di Berlusconi, che l'abbiamo detto mille volte ci ha smentito, perché in realtà è una roba di una lentezza quasi geologica, e quindi ogni 2-3 anni notiamo che lui sta un pochino andando verso la fine, però non è mai finito del tutto. Sarà un ulteriore passo in quella direzione per quanto riguarda Forza Italia. D'altra parte abbiamo visto che ormai il voto moderato in Italia si è spostato abbastanza in parte, probabilmente si sposterà ancora su Renzi. Per quanto riguarda le riforme, quella sarà una bella sfida, perché Renzi finora ha sostenuto la legittimità del suo trattare con Berlusconi dicendo: rappresenta il secondo partito, la seconda coalizione arrivata nel 2013, uno dei principali partiti italiani, il terzo partito italiano, di conseguenza in quanto rappresentante di quel partito io devo trattare con lui. Adesso vedremo se anche un'eventuale condanna per reati che non sono proprio secondari, come concussione e prostituzione minorile, terrà. Comunque io vedo che Renzi su questa roba del Senato adesso sta un pochino scantonando, no? Perché prima cercava in tutti i modi l'alleanza con Berlusconi, c'era stato l'incontro fra i due, il Lanzareno, eccetera. Adesso mi pare che stia cercando, diciamo così, maggioranze alternative, in particolare con la Lega. La Lega un po'. Vabbè, mi sembra che l'obiettivo sia queste riforme, queste dannate riforme le devo fare. Sì, anche, posso dire una cosa velocissima, anche se è mattino presto e nessuno vuole sapere i meccanismi. Il problema è che noi tutti aspettiamo queste riforme perché tu fai il countdown, eccetera, eccetera. Ma guarda che questo è il countdown. Però adesso sarebbe. Ti dico questo, guarda che questo countdown ieri mi ha scritto l'onorevole Sciauchi, mi ha scritto su Twitter, è una cosa pubblica, mi ha detto: guarda che Lorenzo Guerini, che era il presidente del PD, l'ho saputo, me l'hanno detto, esatto, ha citato 24 mattino, ma voglio l'audio, datemi l'audio, dobbiamo trovare l'audio. Però adesso vorrei che una volta, come dire, che abbiamo superato il principio in base al quale le riforme non si fanno mai, ok, si fanno, adesso qualcuno ha occhio di guardare cosa c'è dentro, perché il dibattito pubblico su questa riforma del Senato, scusate se lancio questo piccolo allarme, finora si è concentrato, scusate, su cazzate, perché a me della fine di Mineo piuttosto che cos'è che non va bene, dov'è l'olio di ricino, parliamoci chiaro, per te. Vabbè, allora intanto bisognerebbe valutare l'impianto complessivo Italicum più Senato, non è che, perché sono due robe che viaggiano separatamente, però l'impianto democratico rappresentativo che ne esce è uno solo. E questo impianto nel suo complesso allontana, aumenta la distanza tra cittadini e rappresentanti. Il grosso problema della democrazia in Italia, il motivo per cui abbiamo ogni turno più astenuti, è che i cittadini si sentono sempre meno rappresentati dai loro rappresentanti. Attraverso un meccanismo intermedio, che è quello dei senatori che vengono scelti di fatto dalle segreterie dei partiti, perché le assemblee dei sindaci, le assemblee dei consiglieri regionali risponderanno poi ai partiti. Si allontana sempre, cioè tu lo vorresti elettivo, Massimo, no, è così. Allora è un impianto che rappresenta sia l'Italia per le liste bloccate. Ho capito, ma per elettivo, cioè se deve rappresentare. Senato, niente liste bloccate nella Camera. Elettivo il Senato, c'è addirittura chi lo vuole cancellare, Massimo De Manzoni. Io sono abbastanza d'accordo con Giulio, cioè se partiti da un principio giusto che bisogna superare il bicameralismo, poi si è passati a dire che bisogna risparmiare, che è una cosa leggermente diversa, devo dire, bisogna risparmiare soldi, dico, e si è finiti non si è finiti da nessuna parte, perché stanno ancora trattando a quanto risulta, ma con una specie di pateracchio in cui il dosaggio è: ci mettiamo un terzo di sindaci, due terzi di consiglieri regionali, un quarto di sindaci e tre quarti di rappresentanti regionali, più una spruzzatina di senatori scelti direttamente dal Presidente della Repubblica. Cioè è francamente abbastanza incomprensibile come meccanismo, anche perché ci sarebbero questi part time con la necessità di non spendere, quelli che i nuovi senatori sarebbero nello stesso tempo anche sindaci, per l'appunto, o consiglieri regionali, quindi avrebbero anche il doppio lavoro. Cioè il doppio lavoro. Cosa vai a fare? Vado a fare un attimo al senatore, e potrebbe essere così: sindaci che fanno il doppio lavoro, il dopo lavoro al Senato. Vabbè, e comunque Renzi dice: siamo a un passo, l'accordo c'è, stiamo a vedere. Entro il 3 luglio e l'Italicum e dunque comunque la riforma elettorale entro l'estate. Così ha giurato, eh? Intanto siamo alla 59esima settimana decisiva. Andiamo al traffico. 24 mattino. Volevo dire a quel signore che ha parlato dell'ICI che non paga la Chiesa di documentarsi, perché l'ICI la Chiesa non la paga solo sui luoghi di culto. La colpa è di chi fa parlare D'Alema, ma perché non si leva dalle palle e va in qualche pensionato per anzianetti? Il turbo garantista Angelino Alfano ha rivelato per primo con Twitter che era stato individuato l'assassino di Yara Gambirasio, alla faccia della presunzione di innocenza, e adducendo che la gente aveva diritto a sapere e ha saputo. Ma allora questo deve valere anche quando arresteranno il prossimo ministro, viceministro, sottosegretario, parlamentare o senatore che venga preso a rubare i soldi pubblici o beccare mazzette. Perché, proprio come dice lui, la gente ha diritto a sapere e deve sapere. Ciao Milan, sono il vecchietto di Milano. Ultimamente, a parte Pautasso, la segreteria è molto scarsa. D'altronde gli italiani non sono molto istruiti. L'esempio lampante l'ha dato il nostro Angelino Alfano a proposito di Yara, ma a dimettersi non ci pensa proprio. Cosa dovrebbe fare di più inutile? Alino dice che la carta costa, ma i quotidiani, ahimè, lo fanno apposta a dar notizie strane, ma per cui godere fan chi pensa ai fatti altrui. E all'improvviso una notizia spinta, Nicole Minetti è finalmente incinta. Ciao Zè, da Felice Pautasso. Mitica Nicole Minetti, la nostra segreteria telefonica, il nostro calderone di opinioni in cui si butta tutto. A volte devo fare anche una rettifica. Ieri quello che ci ha detto che Belsito era di Fincantieri, quando invece era di Finmeccanica. Si confondono le cose, si butta tutto così. Vabbè, insomma, il nostro calderone sfogo in cui entra di tutto e di più. Allora, Massimo De Manzoni, oggi ho letto una notizia su Libero che mi ha fatto molto arrabbiare, il trucco salva paga dei dirigenti di Camera e Senato, cioè anche lì pongono il tetto da 240.000 euro, ma col trucchetto. Ma com'è il trucchetto? Ma com'è possibile fare i trucchi? Beh, il trucchetto consiste nell'attribuirsi una nuova indennità che poi va a compensare il taglio che era stato introdotto, certo. Vabbè. E poi raccontato bene, e poi, e poi sì, infatti, da Franco Becchi, se poi durerà 4 anni, cioè una cosa temporanea, e poi sì, esatto, il taglio poi abbiamo scoperto che è a tempo, vabbè, evviva, a tempo determinato. Perché tra 4 anni l'Italia sarà un paese meraviglioso, è chiaro, no è chiaro, tra 4 anni saremo il paese ricchi, del Bingodi, potremo dare almeno 300.000 euro a qualsiasi dirigente di Camera e Senato, potremo pagare i capi redattori dell'Espresso 200.000 euro l'anno, almeno. Saremo un paese però in cui... per 4 anni io spero, come dire, di essere più vicino alla pensione. C'ho un'età. No. Hanno fatto un calcolo, hanno fatto uno studio serio in Germania, in cui hanno detto che per mantenere in equilibrio il sistema tra un po' i tedeschi dovrebbero andare a 78 anni, capito Giglioli? Sentomi da tanto. Sei un po' lontano, Giglioli, da 78 sì, per fortuna, anni. Diciamo, da quell'età lì ancora sì, però vabbè, vedremo. Vedremo le vie della fuga sono infinite. Ho letto l'altro giorno che gli over 50 sono la generazione che vanno più, no, che scappa di più all'estero. Mi sono sentito molto identificato da quella notizia. Gli over 50 scappano all'estero. Sì, non so se l'hai letta, avete letto anche voi. No, non l'ho letta. I pensionati soprattutto. Me la sono persa. Vabbè, vi appassiona invece la vicenda di Yara? Cioè, nel senso, vi appassiona, nel senso, leggere? Perché qua ci sono molte critiche. Anche noi oggi avremo ancora Giulia Bongiorno, avremo il procuratore generale di Brescia, Dall'Osso, quello che ha detto il caso è chiuso. Ecco, vi chiedo da due da due cronisti molto molto appassionati, da due cronisti che, no, che seguono queste vicende, anche vicende di mondo. Massimo De Manzoni, al netto delle polemiche, sentivo, visto che ieri scrivevi anche sulla vicenda Alfano, hai sentito che molta gente ancora si arrabbia, ti appassiona, c'è il giusto distacco della stampa nel raccontare queste cose, oppure no? No, questa è una vicenda che non è stata giusta, tra virgolette, in nessuno dei suoi momenti e neanche la stampa. Cioè, per la stampa è stata una vicenda clou e che ha anche influenzato probabilmente le indagini, l'attenzione con la quale ci siamo concentrati su questa vicenda. Scriveva Facci sul mio giornale pochi giorni fa in quanti altri casi avrebbero speso 3 milioni e mezzo di euro per fare 18.000 test del DNA. Ce ne sono tanti di casi in Italia in cui spariscono, certo, minori e tutte queste ricerche, beh, non vengono fatte. Se però, non che sia giusto, no, certo, sia giusto, se però c'è una soluzione. La domanda era sull'attenzione mediatica. L'attenzione mediatica è stata altissima. Gli errori sono stati altrettanto grandi da parte di tutti e secondo me continuano, anche perché considerare chiusa una vicenda in Italia in cui si andrebbe allo Stato a un processo solo con il test del DNA, perché questa è l'unica vera prova che c'è, sì, non garantisce assolutamente. Ah no, ma infatti di questo infatti parleremo più avanti. Giglioli, tu segui queste io vicende? Voglio fare, sì, giri, sì, le pagine. Sì. No, queste robe me le sono seguite tutte perché sono incazzato come una iena. Sono incazzato, vabbè, a parte Alfano, figura di merda che ha fatto, ma io faccio un appello pubblico, so che tanti giornalisti ci ascoltano, a smetterla di utilizzare il termine figlio illegittimo, che non esiste in Italia dal 75, questo è vero. Figli non sono mai illegittimi, usate la dizione per favore figlio naturale, o se riuscite addirittura figlio biologico, e smettetela pure di dire il vero padre, quello che l'ha generato geneticamente, perché il vero padre, come sanno tutti i genitori adottivi d'Italia, è quello che l'ha cresciuto, buono o cattivo che sì, sia. Sì, in questo caso però il padre adottivo è uno che sceglie consapevolmente. No, ma certo, in questo caso il vero padre è perché si è scoperto che non è lui, insomma, forse è una sintesi brutale, però un po'. Però insomma, l'appello l'hai fatto, l'appello basta dire figlio illegittimo. Va bene, questo è l'appello di Alessandro Giglioli. Vi ringrazio, Alessandro Giglioli dell'Espresso e Massimo De Manzoni di Libero. Ci sentiamo alla prossima. 1, 2, 3. Adesso tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Eccoci, calmati Peter, calmati, cosa urla, mi chiama, urla, sono qua, dove vuoi che vada? Mi sono un attimo allontanato, razza di debosciato che non sei altro anche te. Un grande abbraccio al nostro Peter Bescapè in regia. E mi ero allontanato un attimo, urlava: sei in onda! E vabbè, siamo qua, non ti preoccupare. Allora, siamo pronti a leggere i giornali e vi ricordo che oggi torneremo su quello che è stato definito il caso chiuso. Il caso è chiuso, ha detto il procuratore generale di Brescia Pierluigi Maria Dell'Osso, che sarà ai nostri microfoni alle 8:15. Il caso è quello di Yara Gambirasio. Avremo anche l'avvocato penalista Giulia Bongiorno, ex parlamentare, celebre avvocato, che ha difeso anche casi molto famosi, a dire attenzione a pensare che con la prova del DNA si possa risolvere tutto. Parleremo anche di politica. Le riforme sono vicine, dice Renzi. E noi avremo ospite il vicepresidente della Camera Luigi Di Maio del Movimento 5 Stelle alle 8:45, minuto più, minuto meno. Questo è il menù degli ospiti. Intanto andiamo a sfogliare i giornali. In questo giovedì 19 giugno, intanto i titoli, il Sole 24 Ore apre su IVA, società e appalti, prove di fisco semplice, domani in Consiglio dei Ministri il decreto, comunicazioni più leggere, nuove regole per i rimborsi verso l'abolizione della responsabilità solidale. In prima pagina c'è anche l'infrazione aperta dall'Unione Europea sui pagamenti della pubblica amministrazione alle imprese. Questo è invece il titolo di Corriere della Sera, richiamo UE, l'Italia protesta. La Stampa, debito dello Stato, lite Unione Europea-Italia. Mentre Libero, Renzi non paga, multato, c'è un... un disegno di Renzi al volante con un poliziotto travestito da Angela Merkel, o meglio Angela Merkel travestita da poliziotto, che lo ferma e lo paga. Poi le riforme, avete sentito, siamo a un passo. Renzi-Berlusconi, accordo fatto sul nuovo Senato, così titola Repubblica. Il giornale ancora più ottimista, Berlusconi-Renzi, è fatta. Il Cavaliere dice fine dei giochi, Forza Italia è pronto per firmare. Dopo legge elettorale, Senato tocca al presidenzialismo. Oh, ci siamo, Mi sa che devo smettere di contare le settimane decisive, chi lo sa. Renzi, riforme a un passo, il secolo XIX. Questo è il titolo di prima pagina. Mentre il Messaggero si concentra su Alitalia, Etihad, la mina, esuberi, il Fatto Quotidiano invece Gomorra e il giudice amico, compravamo le sentenze. Sono gli verbali del boss dei casalesi Iovine, che ha iniziato a collaborare. L'Unità invece se la prende con Beppe Grillo, che ha detto di essere contento se l'Unità chiude. Grillo agita il manganello. Questo è il titolo di prima pagina dell'Unità. Altri titoli poi li vedremo, ma intanto voglio partire dalla lettura di alcuni articoli, a cominciare da quello che accompagno con il mio slogan: mani strette sul volante se siete alla guida, e caffè bollenti da appoggiare, perché Libero racconta il trucco salva paga dei dirigenti di Camera e Senato. Lo fa con Franco Bechis a pagina 4. Sapete che è stato posto il tetto per tutti gli amministratori pubblici, 240.000 euro l'anno. Sono esclusi Camera e Senato, che sono autonomi, ma Camera e Senato hanno deciso autonomamente di adeguarsi a questa cosa. Libero però scrive: c'è un trucco. Franco Bechis, la cifra scritta nera su bianco nella bozza riservata di accordo tra Camera e Senato che Libero ha potuto vedere, è una cifra col trucco. Il tetto di 240.000 euro è stato posto infatti alle retribuzioni dei consiglieri parlamentari al netto dei contributi previdenziali, una distinzione questa che fa salire di molto la retribuzione lorda di ciascuno, in media di 40.000 euro l'anno. Quindi il tetto medio sarà di 280 e non 240.000 euro per l'esclusione dei contributi previdenziali dal taglio. La scelta è stata fatta per mantenere a tutti i dipendenti il trattamento pensionistico cui avrebbero avuto diritto con lo stipendio fin qui percepito. Ma beffa della beffa, quindi per loro tra l'altro il tetto potrebbe arrivare con questa aggiunta a 310.000 euro. Beffa della beffa, scrive Libero, ai tetti i contributi previdenziali che li gonfiano devono aggiungersi indennità di funzione. Per il segretario generale sarà di 60.000 euro lordi, per il vice segretario generale 30.000 euro lordi. E ultimo particolare, il taglio agli stipendi avrà la formula di contributo straordinario di solidarietà con forma temporanea e sarà diluito in 4 anni. Insomma, durerà 4 anni e poi si vedrà. Questo per Libero, il trucco salvapaga dei dirigenti di Camera e Senato. Oh, la RAI torna in discussione sui giornali, ne abbiamo già anticipato qualche dettaglio quando si raccontava qualche tempo fa che la RAI vuol far partire, o meglio il governo vuol far partire un referendum popolare, cioè una consultazione tra tutti i cittadini online su come migliorereste voi, cari cittadini, la RAI. Una rete RAI senza pubblicità, canone secondo il reddito, così è il titolo di pagina 11 del Corriere della Sera, è il piano dell'esecutivo. Il futuro della RAI si va definendo ogni giorno di più, scrive Paolo Conti. Molto materiale si trova sulla scrivania del sottosegretario allo sviluppo economico con delega alle comunicazioni, vale a dire Antonello Giacomelli, che fa parte con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'editoria Luca Lotti e il sottosegretario all'economia Giovanni Legnini di una sorta di troica incaricata dal presidente del Consiglio Renzi di immaginare la nuova RAI. Le ipotesi sono sul canone, visto che si vuol contrastare l'evasione, 26% di abbonati che evadono, un unicum in Europa che toglie fino a 600 milioni di euro annui alla RAI. Come la si combatte? Canone collegato all'utenza elettrica, come in Francia, questa è una delle ipotesi. e la verità spunta di tanto in tanto. Canone coordinato con la residenza o canone rapportato alla capacità di spesa con meccanismo innovativo che abolisca l'imposta uguale per tutti. Più alta per chi spende di più, più bassa per esempio per i pensionati. A questa soluzione lavora appunto Giacomelli. Comunque il dossier RAI è al centro e tra qualche settimana partirà l'idea di domande da fare ai cittadini, consultazione popolare, l'uso del codice fiscale impedirà un doppio voto, Renzi ha in mente una TV pubblica slegata dalla pubblicità, come i due canali BBC che affidano solo a Channel 4 il confronto col mercato rappresentando un volano per l'industria audiovisiva. Saranno le domande che verranno poste ai cittadini queste: quante reti RAI volete senza pubblicità, quante testate giornalistiche, quali contenuti vi aspettate e così via. Partirà tra poco questa consultazione. L'obiettivo è il ritorno alla TV del maestro Manzi, espressione cara a Matteo Renzi, che prevede dunque un ripristino della RAI come industria culturale e ideativa. A proposito di RAI, il Fatto Quotidiano invece scrive che la RAI sta per perdere uno dei pezzi più pregiati, cioè Giovanni Floris, conduttore di Ballarò, a 6 giorni dalla presentazione dei palinsesti che avverrà settimana prossima il 25 giugno, il conduttore di Ballarò è ancora senza contratto. Floris non firma, sempre più lontano dalla RAI. Questo è il titolo di pagina 10 del Fatto Quotidiano con Carlo Tecce che racconta i tormenti di Floris, che non vuole essere inchiodato a Ballarò, vuole più spazio, più serate, non vuole cedere né visibilità né stipendio, e si affacciano La 7 che smentisce e Mediaset che anche diciamo in questo momento non conferma nulla, ma secondo Carlo Tecce, d'altronde quello è il mercato televisivo, Floris rischia davvero di non far più parte della RAI e passare a Mediaset oppure La 7. Un'altra notizia che mi ha molto colpito, il Messaggero dedica mezza pagina a questo con Mario Aiello, riguarda un personaggio che è stato un personaggio a suo modo storico, perché ha preso parte al processo, uno dei processi più controversi, più dibattuti e fonte di libri e di polemiche, vale a dire quello a Enzo Tortora. Si tratta del PM di allora, Diego Marmo, che è diventato il nuovo assessore alla legalità del comune di Pompei. L'ex PM del caso Tortora diventa assessore alla legalità a Pompei. Messaggero, pagina 9. Quante volte si è vista la brutta abitudine del PM che diventa politico? Da Antonio Di Pietro, Antonio Ingroia. Si è vista spesso. Inizia così l'articolo Mario Aiello. Ma non è il mio caso, assicura Diego Marmo, il quale dopo l'arresto clamoroso, proverbiale e terribile di Enzo Tortora, il 17 giugno 83, fece il pubblico ministero nel celeberrimo maxi processo per camorra contro il giornalista televisivo e altri, la cui vicenda viene ancora considerata una delle pagine più buie della giustizia italiana. Diego Marmo è stato appena nominato assessore alla legalità al comune di Pompei, ma lui dice: non c'è nulla di male, io sono in pensione, un uomo da giardinetti, quindi nessun passaggio diretto, non vedo niente di male in questa cosa. Poi si riepiloga tutta la vicenda Tortora, per la quale per la verità Marmo non spende una parola. Io, dice, non ho mai fatto politica in vita mia, non voglio parlare di quella storia per rispetto a una persona che non c'è più e ha sofferto tanto. Comunque io sono stato solamente pubblico ministero d'udienza, cioè quello che si alza e fa le richieste di pena. Ho fatto le richieste per 290 persone, non solo per Tortora. E riguardo all'assoluzione di Tortora dopo la colpevolezza per associazione a delinquere di tipo mafioso, dice: non voglio, ripeto, parlare di lui per un fatto di rispetto. L'assoluzione in appello dopo una condanna fa parte del gioco processuale. Così Diego Marmo, che dice invece: quando sono stato a capo della procura di Torre Annunziata mi sono reso conto di una serie di danni che si stanno facendo a un patrimonio dell'umanità, quello della zona archeologica di Pompei, e quindi quando mi ha chiamato il nuovo sindaco di Pompei ho deciso: ci metto la faccia. Questa storia la trovate sul Messaggero. Ora ci fermiamo Un paio di minuti e poi ripartiamo. Da che cosa? Le riforme sono a un passo, compresa la riforma elettorale. All'alba della 59esima settimana decisiva che stiamo quasi per concludere, ma ci siamo, è un passo, l'ultimo miglio, così giurano i diretti protagonisti. E poi ovviamente anche le altre notizie. Alessandro Mela leggerà le notizie in una maniera che non potete rifiutarvi. Avete capito? E allora, le riforme, ci siamo, è incredibile, ma ci siamo? No, nel senso, stando almeno a tutti i giornali, ci siamo all'alba, ormai quasi al tramonto, anzi della 59esima settimana decisiva di questa legislatura per la riforma elettorale e l'abolizione delle province. Tutti i giornali spargono grande ottimismo, riforme in aula il 3 luglio, il premier ottimista, chiusura a un passo, questo è il titolo per esempio del Corriere della Sera pagina 8, addirittura il giornale, come detto, titola in prima pagina. Eccolo qua. Berlusconi Renzi è fatta. Sulle riforme costituzionali siamo a un passo dalla chiusura, così Matteo Renzi, sempre più sicuro dell'accordo. Parla del Senato nuovo, racconta il Corriere della Sera con Alessandro Trocino. Già oggi il ministro Maria Elena Boschi potrebbe incontrare il capogruppo di Forza Italia al Senato Romani. L'accordo politico è vicino. Il Senato, come spiega anche Roberto Calderoli, non sarà più quel dopo lavoro che era diventato. Avrà un potere nel processo legislativo europeo, anche nella fase ascendente, cioè in quella di formazione delle direttive. Tutti inoltre dovranno rispondere a costi e fabbisogni standard. Questi sono alcuni dei punti cardine. Il giornale con Francesco Kramer assicura, pagina 3, il Cavaliere dal via libera a Renzi sulle riforme, ormai è fatto. Avanti con le riforme, anche se ieri il presidente Berlusconi, scrive il giornale, ha presentato il presidenzialismo srotolando questa bandiera, partendo lancia in resta per una grande campagna referendaria sul tema, ma assicura il giornale, e questa cosa potrebbe creare un problema nella discussione, la carta presidenzialismo non va letta come un out-out, non è il grimaldello con cui scardinare il patto con il premier. E anche Repubblica, con Francesco Bei in prima pagina, Matteo dice ognuno rinuncia a qualcosa, questo è il retroscena sotto il titolo Renzi-Berlusconi, accordo fatto sul nuovo Senato. Addio al Senato, la svolta finalmente è arrivata, ognuno di noi dovrà rinunciare a qualcosa, chiarisce Renzi a tutti gli interlocutori. Alla fine, anche sul punto più complicato, ovvero la composizione della nuova assemblea, la quadra è stata trovata. Tutti i tasselli stanno andando al loro posto, perfino l'Italicum. Sull'Italicum il lavoro è ormai avanzatissimo, tanto da far ipotizzare a Renzi di vederlo approvato a Palazzo Madama entro l'estate. Ma intanto, quindi segnatevi questa data, ma intanto la riforma costituzionale, l'accordo è vicino, conferma anche Giovanni Toti. Come sarà il nuovo Senato? Non è più un dopolavoro per sindaci, come disse Berlusconi, ma avrà competenza sulla legislazione regionale e quella europea. Coelegge il Presidente della Repubblica, il CSM e i giudici costituzionali, recupera voce su leggi elettorali e quelle costituzionali, crescendo le funzioni cambia anche la composizione. Renzi rinuncia al suo Senato dei sindaci, i primi cittadini saranno invece pochi, circondati da una stragrande maggioranza di consiglieri regionali senatori. Vabbè, tutti tecnicalità, diciamo, il messaggio politico che viene fuori è che appunto c'è un accordo a un passo. Questo staremo a vedere. I patti li rispettiamo, l'accordo è a un passo. La polemica politica invece ieri si è incentrata su quello che è successo con la procedura di infrazione europea aperta nei confronti dell'Italia da parte dell'Unione, della Commissione europea, perché sui debiti, i pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione. Tra l'altro la polemica politica è perché a fare dare il là a tutto ciò è stato il commissario Antonio Tajani, che tra poco si dimette perché è stato eletto deputato, eurodeputato di Forza Italia. E questa cosa ovviamente ha suscitato un botta e risposta mica male. Racconta per esempio il Sole 24 Ore con Marzio Bartoloni a pagina 2 i, che cosa, i dettagli. L'Unione Europea non fa retromarcia, mette ufficialmente nel mirino l'Italia per i ritardi nei pagamenti. Il nostro paese resta il peggior pagatore d'Europa con 6 mesi di media per onorare i debiti. E così ieri, dopo tanti annunci, è scattata la procedura di infrazione contro il nostro paese. Quella del ritardo dei pagamenti alle imprese e da parte della pubblica amministrazione è la cronaca di un'infrazione annunciata, arrivata su iniziativa del commissario europeo all'industria Antonio Tajani. Lo stesso Tajani che abbiamo sentito anche poco fa nel giornale radio, ieri era ospite di Deborah Rosciani, ai microfoni di Radio 24, che cosa dice? Viene intervistato dal Corriere della Sera. Io corretto fino alle elezioni sono stato fermo. È vero il contrario, non che io ho strumentalizzato, ho compiuto un atto di responsabilità verso imprese e lavoratori italiani. Perché quando lo Stato non paga i suoi debiti e un'impresa va in crisi? Qual è la prima cosa che si fa? Si licenziano i lavoratori, ma lo Stato, la pubblica amministrazione deve invece pagare. Entro 30 o 60 giorni impone l'Unione Europea. Sì, a Padoan che dice è incomprensibile, anch'io sono sorpreso perché Padoan non è forse ben informato, risponde Tajani. Si riferisce evidentemente ai vecchi debiti pregressi, quelli precedenti alla direttiva europea che nel 2013 è divenuta tra l'altro legge della Repubblica Italiana. D'altronde da un anno e mezzo sollecito l'Italia, si ricorda la prima risposta italiana? La prima risposta fu, beh, paghiamo la mora. Un primo rinvio della procedura c'era già stato quando era venuto qui Enrico Letta. La verità è che l'Italia è stata avvisata in ogni modo. Tutto inutile. Perciò mi sembra strano che Padoan si dica ora sorpreso. Certo, le accuse sono quelle, ha tramato contro il suo stesso paese il commissario europeo che ora si dimette perché diventa eurodeputato di Forza Italia. Accuse politiche, il dato di fatto è che la procedura di infrazione e il macigno sull'Italia c'è. Voglio salutare Mauro Meazza. Mauro, buongiorno, come va? Buongiorno, buongiorno, tutto bene, grazie. Hai una procedura di infrazione che ti incombe sulle spalle? Comunque non mi hanno avvisato, sai, così, e quindi lo scoprirai presto. Perché no, stavo considerando che sul tema, anche sul Sole 24 di oggi, a pagina 2 c'è uno specchietto, noi e gli altri, tempi lunghi per le imprese, effettivamente, insomma, non siamo messi bene. No. Ecco, no, siamo proprio ultimi in classifica, siamo conciati come la Spagna ai mondiali, diciamo così. No, accidenti. Non te lo volevo dire, però insomma, diciamo che qui i numeretti, per carità, non ci fanno tanto onore. Ma vabbè, niente, veniamo ad altri numeri, poi tanto tutto sta per cambiare, perché domani, lo sai, c'è il VAR delle semplificazioni fiscali e cambierà tutto, anche questa cosa del 730, del modello della dichiarazione redditi precompilata. E allora oggi Mobili, Marco Mobili e Giovanni Parente raccontano un po' di anticipazioni sul provvedimento di domani, e devi sapere che terranno conto, riusciranno a tener conto, questo è il progetto, anche delle spese sanitarie, delle spese dei farmaci. Questo mm-hmm. mi sembra, beh, non so, una roba che impatta tutti gli italiani. È un progetto ambizioso, come direbbe lo stesso Premier, probabilmente, non so se di smisurata ambizione o di misurata ambizione, però è un progetto ambizioso che ha un impatto molto rilevante. Così come potrebbe avere, lo raccontiamo nelle pagine di Finanza, lo scrive Sissi Bellomo, che potrebbe cambiare il fixing, cioè la procedura con cui viene fissato il prezzo dell'oro. Non so se, che è una cosa che si affida delle regole fatte nel 1919. Ah. Non tutti sanno che si potrebbe anche aggiungere. Parafrasando, certo. Parafrasando una fortunata rubrica di una tanto fortunata rivista. Ma no, la cosa è molto interessante, sta già cambiando il meccanismo di fissazione del prezzo per l'argento, cambia anche quello dell'oro. Tutti i particolari, non stavolta in norme e tributi, ma in finanza, nelle pagine di Finanza, precisamente nella pagina intitolata Le materie prime. Poi che dirti, sei contento, è diventato legge finalmente in via definitiva il decreto legge sugli 80 euro? Sì. Del bonus, sei felice? Sei contento? Sì, no, sono felice se arrivano. No, non ti sento motivato su questa cosa, ma mi sembri scettico. È una cosa importante, tra l'altro, perché in quel decreto ci sono cose diverse, mica solo gli 80 euro, si dice euro, non è che adesso vorrei mettere qualcuno sulla, così nell'errore, ma ci sono anche il taglio dell'IRAP, ma c'è anche la conferma definitiva finale che dal 1° di luglio aumenta il prelievo sulle rendite finanziarie dal 20% al 26%, e stava lì dentro e ce l'eravamo scordati perché guardavamo tutti gli per finanziarlo, infatti. È così. E allora come si fa ad affrontare serenamente questo cambiamento? Si legge oggi sulle 24 ore, pagine di norme e tributi, dove ti raccontiamo questo e tutte le altre novità del decreto. Bene. Adesso dovresti essere decisamente più felice, no? Sì, ora mi hai rallegrato molto. Beh, rallegrato magari non lo so, però diciamo che ti ho dato dei motivi di tranquillità superiori rispetto a quelli precedenti alla nostra telefonata. Beh, ottimo. È già il mio momento, di capire, perché il tempo scorre inesorabile. Va bene, traffico. Alessandro Milan, il sarchiapone dell'informazione. Mi sembra giusto. Allora, noi avremo anche il vicepresidente della Camera, Luigi Di Maio, del Movimento 5 Stelle. Oggi sul Movimento di Beppe Grillo, da segnalare due notizie. La prima, che Pietro Grasso, presidente del Senato, dice: siccome Grillo è il tesoriere del Movimento, deve consegnare entro la fine del mese il suo 7.30. L'ex comico viene così invitato dal Presidente del Senato a consegnare il 7.30. Ma poi soprattutto Grillo è entrato in polemica con l'Unità. Ieri in un post sul blog, Beppe Grillo in pratica ha detto: l'Unità chiude, o meglio è stata messa in liquidazione, il concetto molto semplice, speriamo che chiuda, è un'ottima notizia. Oggi l'Unità risponde in prima pagina, il titolo è: Grillo agita il manganello, Grillo senza vergogna, l'Unità chiude, bene. C'è anche un corsivo ricordando, insomma, chi ha voluto cercare di chiudere l'Unità, se il giornale chiude un bene, insomma, sono toni da fascista. Così l'Unità, c'è anche la campagna "In lotta io sto con l'Unità", lanciata dalla prima pagina del quotidiano. Il senso di una dittatura, secondo Grillo, il bene che l'Unità chiuda. Vabbè, lasciamo le polemiche politiche, la cronaca si concentra sempre sulla vicenda Yara Gambirasio, ci sono ancora molti articoli, molti dettagli, la conferma del DNA, cioè la persona fermata è figlia dell'autista Guerinoni, ci sono anche, per la verità, pochi dettagli sulla permanenza in carcere di Massimo Giuseppe Bossetti, il quale non parla ufficialmente negli interrogatori, finora si è avvalso della facoltà di non rispondere. Ci sono però dei retroscena, secondo Paolo Berizzi di Repubblica ha detto, una volta tradotto in carcere: io ho dei bimbi di quell'età, non potevo uccidere Yara, vogliono solo un colpevole, non sono io l'assassino, come potrei aver fatto una cosa del genere. E ancora, sempre secondo Repubblica, avrebbe detto in carcere: mi hanno incastrato perché dopo 4 anni non trovavano nessun altro, solo per questo. E invece in un retroscena di Libero, firmato Cristiana Lodi, a pagina 12, che cosa dice sempre la persona accusata dell'essere l'assassino di Yara Gambirasio? Certo che ero lì vicino alla palestra la sera in cui hanno preso la mia bambina, e allora ricordo bene, ero andato a fare dei lavori in alcune villette della zona. Controllate e vedrete che ho ragione. Certo, ora si chiedono perché quel DNA sia rimasto attaccato agli indumenti, in particolare anche agli slip della piccola Yara. Ed è certo questa la domanda chiave di questa inchiesta. Ci sono anche dettagli, secondo il Corriere della Sera, pagina 13, con Fiorenza Sarzanini, il verbale dell'interrogatorio, anche, o meglio, delle dichiarazioni della moglie di Bossetti, che dice: parlava di Yara e quando ne parlavamo in casa come tutti mio marito era tranquillo. E poi accusa la suocera Esther di non avere rivelato di questa relazione extraconiugale con Guerinoni, da cui sarebbe nato appunto due gemelli, dovevi dirci tutto. Queste le urla quando si sono incrociate in caserma. Vabbè, ne parleremo come detto alle 8:15 con il procuratore generale di Brescia Pierluigi Maria Dell'Osso e con Giulia Buongiorno. Intanto un'altra vicenda giudiziaria, davvero, o meglio una vicenda non giudiziaria, ma le rivelazioni del pentito dei casalesi Antonio Iovine, beh, creano un putiferio, perché Iovine dice c'era in qualche modo un sistema per aggiustare le sentenze a Napoli. È il titolo principale del Fatto Quotidiano: Gomorra e il giudice amico, compravamo le sentenze. Iovine dice: ho speso 250.000 euro per essere assolto. Chiama in causa avvocati, chiama in causa magistrati. L'avvocato Santonastaso dice: Iovine mi fece sapere che c'era la possibilità di ottenere l'assoluzione. Ora cerco la parola giusta per farvi capire, perché non era direttamente al presidente, era una sorta di ombra dietro che girava, c'era tutta una struttura che girava nel tribunale di Napoli. Tira in ballo attraverso l'avvocato Santonastaso alcuni magistrati, come l'ex giudice, ex presidente della Corte d'Assisi di Napoli, Pietro Lignola, l'avvocato Sergio Cola, che rispondono: è solo fango mediatico. Sergio Cola, avvocato, dice: mi sento profondamente offeso, intervistato da Repubblica, indignato da questa colata di fango. Mentre Pietro Lignola, il magistrato, dice: se Iovine è stato assolto significa che doveva essere assolto, tutelerò la mia onorabilità in tutte le sedi. Nessuno mi ha pilotato e difenderò il mio onore. Sono accuse davvero dure, fa male ascoltare cose del genere. L'Italia di questi anni è un paese dove può accadere di tutto e nulla deve meravigliarci. Questa è la difesa delle persone tirate in ballo da Iovine. Va bene, siamo al momento conclusivo, al momento della carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Siamo ancora, io non lo sopporto l'argomento della maturità, ma è un difetto mio, è un difetto mio. Ma siccome la scelta è a mio insindacabile giudizio, due pagine, non una, due pagine di Libero, il tema della maturità svolto dai nostri politici. Hanno chiesto a Maurizio Lupi, Massimo Brai, a Bersani, alla Santanchè di fare il tema storico della maturità di ieri. L'Europa dal 1914 al 2014, quali le differenze? Chiedendo ai lettori, votate, date il voto! Date il voto al tema della Santanchè, ma chi se ne frega? Ma chi se ne frega? Amici di Libero, ieri prima avevo il vice direttore De Manzoni, dovevo dirglielo. 24 mattino. Alle 8:20, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, nel carcere di Bergamo, Massimo Giuseppe Bossetti, che è accusato di essere l'assassino di Yara Gambirasio, tace, si avvale della facoltà di non rispondere davanti ai magistrati. Secondo retroscena dei giornali, Repubblica e Libero in particolare, dice: ho figli dell'età di Yara, come avrei potuto essere io, come avrei potuto ucciderle, ancora mi hanno incastrato. E infine, racconta Libero, dice: certo, ero lì quella sera perché lavoravo in alcune villette della zona, lui che fa il muratore. Eppure da più parte si è letto: il caso sostanzialmente è chiuso, il DNA suo è certamente il DNA ritrovato sui vestiti di Yara, come ieri ci ha confermato il professor Novelli, genetista consulente di questo caso. Diciamo che sulla individuazione e l'appartenenza del DNA a un individuo, su questo caso non ci sono dubbi, il DNA è il suo, anche perché c'è stata la conferma sulla componente maschile e la componente femminile. Cioè il DNA sui vestiti, esatto, della piccola Yara è il DNA della persona che è stata fermata. Sì, su questo non c'è dubbio. Non c'è dubbio. Allora, io voglio salutare il procuratore generale di Brescia, Pierluigi Maria Dell'Osso. Buongiorno. Buongiorno a lei. Lei che buongiorno ha anche competenza sul caso di Bergamo. Anche lei sostanzialmente ha detto il caso è chiuso. Glielo dico brutalmente, ma così il garantismo non va un po' a farsi benedire? Nessun caso si può dire chiuso quando non abbia ancora passato varie fasi, e in particolare quella del dibattimento di primo e secondo grado e il vaglio della, della Corte di Cassazione. Io ho detto che la ricognizione e l'esplorazione del DNA e quindi di quel percorso investigativo si poteva considerare completata, salvo le eventuali ulteriori, gli eventuali ulteriori accertamenti successivi. Quindi mai il caso è chiuso, non certo. C'è mai un caso chiuso, ed è anche un'improprietà, probabilmente un'improprietà lessicale, probabilmente derivata dai film, dai B-movie nei quali si abbonda di questo tipo di considerazioni. Senta, andare in aula solamente, per carità, con la certezza al 100%, come ci ha detto il genetista Novelli, che il DNA della persona fermata è il DNA trovato anche sui vestiti di Yara, è un qualcosa che regge l'impianto? Indubbiamente è il punto essenziale, nevralgico e di grandissima importanza dal punto di vista probatorio dell'accusa di omicidio. Andare in aula, diceva lei, naturalmente se ci fosse solo questo e non ci fosse altro da fare, si andrebbe in aula con questo, senz'altro. Il fatto è che ci sono molti altri elementi che si incastrano perfettamente con questo elemento. Qui abbiamo avuto una serie di indagini di carattere tradizionale che sono state svolte dalla polizia giudiziaria, coordinati dalla dottoressa Letizia Ruggeri, che ha grandissimi meriti in questa vicenda. E quindi questi sono arrivati al massimo della espletabilità, non bastavano. Dopodiché il percorso parallelo relativo all'immane fatica che è costata la raccolta del DNA e il passaggio di tutte le esplorazioni ha portato al risultato che voi sapete dell'altro giorno. Certo. Questo si è incastrato perfettamente con tutte le altre risultanze, quindi già in questo momento non si può assolutamente parlare solo della del sola DNA, risultanza, certo, nella maniera più tentativa, e si stanno continuando a completare accertamenti che come dire, faranno da corona ulteriore alla prova genetica. È chiaro. Procuratore, intanto le voglio presentare l'avvocato penalista Giulia Bongiorno, che è stata anche parlamentare. Benvenuta, avvocato, eccoci qua. Buongiorno a tutti. Allora, lei è stata una delle più critiche, se non altro, a dire attenzione, cari tutti, attenzione a non, voglio dire, sbattere il mostro in prima pagina, cosa che peraltro è già stata fatta. In che cosa, secondo lei, ha sbagliato, se vuole, anche il mondo dell'informazione? Guardi, io ho fatto una critica e un apprezzamento. Dire, ho apprezzato la conferenza stampa della Procura della Repubblica, ora non so se c'era anche il procuratore generale dell'Osso, comunque coloro che erano presenti in quella conferenza stampa sicuramente si sono pronunziati in termini dubitativi, hanno detto esiste la presunzione di innocenza, abbiamo trovato queste prove che per noi possono essere significative. Non ho apprezzato per nulla il ministro Alfano, persona che per altro verso, per carità, tante volte fa bene, perché ha mandato un tweet in cui ha parlato di individuazione dell'assassino. Non ho apprezzato media, giornali e radio che hanno sostanzialmente dato per certo, scontato e definitivo quello che sicuramente è un elemento importante che sarà verificato. Però vede, quando si appunto sbatte in prima pagina un soggetto con la scritta assassino, se per caso poi questo soggetto non è l'assassino, lo resterà per sempre. Se poi vogliamo entrare nei fatti specifici del caso, io non potrò mai entrarvi perché comunque non sono né l'avvocato, certo, dell'indagato né altro. Per quanto concerne la storia del DNA, il professor Novelli è uno dei massimi esperti in materia. È anche vero che per ora si stanno rappresentando quelle che sono le risultanze dell'accusa, cioè secondo l'accusa questo DNA è un DNA assolutamente affidabile. Mm-hmm. Ci sarà un momento in cui l'indagato avrà un proprio consulente, cioè un soggetto che leggerà quel DNA in un'ottica diversa, e allora cominceranno a venire fuori una serie di dubbi, di perplessità, si passerà alle perizie, superperizie, insomma cose che siamo abituati a vedere in tutti i processi. Però a me vengono i brividi quando vedo e leggo che questo soggetto è già assassino, poi magari lo sarà. No, ma è chiaro, si è andati un po' troppo avanti. A questo proposito, procuratore, non è che la voglio fare entrare in polemiche politiche, ma le chiedo questo: era possibile non svelare l'identità? Arriviamo al paradosso, come succede per esempio in Gran Bretagna, non svelare neppure l'identità e non far vedere neanche una foto della persona fermata? Ma questo è sempre possibile, voglio dire, ancorché in Italia abbiamo questo malvezzo, questo vezzo criticabilissimo di voler immediatamente chi si trova, a seconda dei vari casi, non resiste alla tentazione. Quindi quello che posso dire è che parlandone con i colleghi fino a stamattina non ci sono stati pregiudizi per le indagini che hanno. C'è qualche problema, qualche suono sul cellulare che non riuscirei neanche a spiegare, non lo so, dei beep. Avvocato, buongiorno, lo chiedo anche a lei, cioè da esperienza, cosa era possibile fare? Perché voglio dire, se c'era il desiderio da parte dei giornali di far sapere, di informare, far sapere chi era, si poteva in qualche modo opporre che cosa dall'altra parte? Allora, io credo che sia assolutamente legittimo, soprattutto in indagini che comunque sono state portate all'attenzione dell'opinione pubblica, che la procura, le forze dell'ordine, per carità, in un secondo momento direi, anche la politica, diano conto di quello che si sta facendo. In questo caso, a mio avviso, quello che si doveva fare era presentare il caso come una importante svolta, tutta da verificare. Se questo fosse stato fatto sia dai giornali sia dalla politica, probabilmente quella che è la conferenza stampa della Procura della Repubblica sarebbe stata presa come una normale conferenza stampa. Certo, ma com'è possibile tenere nascosto in un paese, in piccoli paesi, il fermo di una persona? Guardi, io non dico di tenerlo fermo, io dico che esistono, quando si fa il giornalista, quando si fa il ministro, esistono diritti e doveri. È un grande potere fare comunicazione, poter scegliere un titolo. Allora, anziché scrivere assassino, dire l'indagato, oppure precisare meglio, perché io vedo che esempio in questi giorni, mentre noi stiamo parlando, si è avvalso della facoltà di non rispondere, quindi sarà lui. Guardi, io personalmente dove l'ha sentito questo? Cioè, guardi, qualcuno... che quasi tutti, credo anche i giornali di oggi, deducono che il fatto che questo tizio scelga di non rispondere significa qualche cosa da nascondere, che poi è un'equazione anche questa che io non condivido, perché spessissimo io consiglio ai miei assistiti, soprattutto all'inizio, di non fare delle dichiarazioni se non si conoscono bene gli atti, perché quello che si dice oggi poi vale per tutta la vita. È chiaro. Quindi a volte una strategia difensiva, però le dico, in questo caso forse come non mai, io ho visto questo soggetto trafitto come se fosse veramente ormai definitivamente l'assassino. No, ma su questo senza dubbio ci sono stati anche degli errori. Procuratore dell'Osso, abbiamo ripristinato la linea. Si è parlato anche da parte di qualcuno di possibili complici, cioè di altre persone. Questo è un altro qualcuno ha parlato anche addirittura di serial killer. Qualcuno mi ha chiesto se si poteva mettere a disposizione poi il reperto DNA per confrontarlo con quello di killer che non sono mai stati scoperti. Mi pare che si tratti di esercizi al momento, non dirò di fantasia, ma di pure congetture che non hanno ragion d'essere. Quello che volevo sottolineare è questo: io condivido perfettamente il discorso sulla presunzione di innocenza e l'assoluta improprietà l'assoluta censurabilità di dare dell'assassino in tempi assolutamente sfalsati, intempestivi e via discorrendo. Vorrei però, se mi è consentito, fare una considerazione particolare. A parte, ecco, mi pare che questo caso dimostri come non esistano in omicidi delitti perfetti, esistono soltanto indagini imperfette. Questo caso mi pare emblematico di come un'indagine che è andata via via perfezionandosi sia arrivata a dimostrare questa mia affermazione. Sì. Non esistono delitti perfetti. No, ma lei infatti più volte ha detto che ha elogiato anche il PM che se ne è occupato. Assolutamente, e mi permette su questo punto una osservazione. Questo PM, che è la dottoressa Letizia Ruggeri, sì, è stata letteralmente in questi 3 anni e mezzo fatta soggetta di tutte, destinataria di tutte le critiche possibili e immaginabili, perché aveva intrapreso a un certo punto un percorso investigativo inedito e inedito. Tale risulta in Italia e tale lo verificherò alla prossima riunione della rete giudiziaria europea la settimana prossima, cui parteciperò, e tale credo che sia a livello europeo, per cui una volta che si potrà delinearlo anche in termini per così dire divulgativi, in termini sarà opportuno farlo, perché rappresenta veramente una novità. Ecco, dal punto di vista della ragionevole, potremmo dire più che ragionevole, certezza sotto il profilo del DNA, il discorso è assolutamente ritorna sotto da tutti i punti di vista, cioè non ci sono ragionevoli dubbi su questo. Naturalmente è chiaro che anche questo dato tecnico sarà oggetto di dialettica fra di controperizia e difesa e via discorrendo, quello che si vuole, ma posso dire che per i sistemi avanzatissimi che sono stati utilizzati e per lo scrupolo con cui è stato fatto, certamente il risultato riguardante il DNA è un risultato assolutamente quindi lei ci conferma, come ha detto il professor Novelli, è certo per le vostre indagini che il DNA della persona fermata è il DNA sui vestiti di Yara, non ci sono dubbi su questo. Mi faccia fare quest'ultima domanda però: si è raccontato anche nelle maglie di una indagine molto complessa che due anni fa ci sarebbe stato un errore che ha rallentato un pochino le indagini, un errore di comparazione tra i due DNA che erano stati raccolti. C'è stato questo errore? Si può dire oggi se c'è stato o no? Questo percorso sul DNA è stato lunghissimo. Ci sono stati momenti in cui si sono dovute rivedere determinate, e diciamo la strategia e il percorso è stato costantemente costellato da necessità di calibrare, di verificare, di accogliere e raccogliere altro. Quindi voglio dire, momenti di rallentamento e momenti di ripresa accentuata ce ne sono stati perché era ragionevole, ma devo dire che il pubblico ministero, di cui mi lasci dire una sola parola di lode, ha proceduto con assoluta fermezza d'animo e laboriosità fuori dal comune, nonostante abbia avuto diversi periodi nei quali è stata veramente oggetto, destinataria, ma non di critiche, di per cui voglio dire, se le cose fossero andate diversamente sarebbe stata virtualmente, ovviamente, destinata alla ghigliottina, perché praticamente, voglio dire, va molto, ma molto, ma molto apprezzato il fatto che lei non solo non si sia fatta condizionare, ma non ha mai risposto una sola parola. Cioè, te ha tirato, critiche, è attirato eccetera. Allora, quindi, ma questo sicuramente. Io vi devo salutare perché devo andare in pubblicità, ma vi ringrazio molto. Il procuratore generale di Brescia, Pierluigi Maria Dell'Osso, e Giulia Bongiorno, avvocato penalista, per essere stati con noi. 800 24 00 24 è il numero per intervenire se volete su questa vicenda. Ci sono qualche minuto dopo la pubblicità, poi parleremo di politica, avremo il vicepresidente della Camera Luigi Di Maio del Movimento 5 Stelle ai nostri microfoni. Arrivano le riforme, arrivano, chissà. 24 mattino. Siamo qui alle 8:43 minuti, parliamo ora un po' di politica, perché se uno legge i giornali di oggi sembra davvero che siamo vicini all'accordo sulle riforme, compresa la riforma elettorale, ma la riforma del Senato, le riforme costituzionali. Il giornale titola Berlusconi, Renzi è fatta, ma anche il Corriere della Sera, Repubblica, riforme in aula il 3 luglio, secondo tutti retroscena, Renzi è ora e certo, ci sarà la riforma elettorale prima della pausa estiva. Allora voglio salutare il vicepresidente della Camera e del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio. Buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno a voi. Allora, voi che fate? Fate parte di questo dialogo per le riforme o no? Intanto. Ma guardi, noi domenica mattina abbiamo inoltrato ufficialmente una richiesta al Presidente del Consiglio e segretario del partito di maggioranza, una richiesta per incontrarci e discutere la legge elettorale, visto e considerato che ci sono tuttora dei mal di pancia, stante la conferenza stampa anche di Berlusconi di ieri, su riforme, legge elettorale e così via. Il problema è che non ci hanno risposto ancora, ormai sono passati oltre 4 giorni, ci facciano sapere che cosa vogliono fare, questo temporeggiamento e allo stesso tempo ignorare totalmente questa richiesta, dopo che ci hanno chiesto per tanto tempo di discutere della legge elettorale, ci sembra anche un tantino scortese. Cioè non avete avuto segnali di nessun tipo? Noi non abbiamo avuto risposte ufficiali alla nostra richiesta ufficiale, vorrei solo precisare che noi vorremmo fare la legge elettorale del 2014, non quella del 2054, sì. Quindi se ci fanno sapere qual è la loro risposta alla nostra richiesta, cioè se vogliono incontrarci o no sulla legge elettorale, sarebbe quantomeno cosa dovuta. Però poi, mi scusi Di Maio, voi avete detto per mesi e mesi non si dialoga, poi avete detto ok, adesso abbiamo una legge elettorale, la nostra è proposta dalla rete, elaborata dai nostri esperti eccetera, vogliamo discutere di questo, non sembra un po', come dire, quello è un punto di partenza. Io l'ho precisato più volte su questo fatto della nostra legge. Noi abbiamo una legge che è stata fatta dai cittadini assistiti da docenti universitari votando sul nostro portale del Movimento 5 Stelle. Quello è un punto di partenza, l'ho detto nella conferenza stampa di qualche giorno fa. Vogliamo, se si va a un tavolo di trattativa, si va a un tavolo per, come dire, trattare. Chiaro, quindi però, si ascoltano le proposte della controparte, certo. Si mettono insieme e si vede quali sono le criticità. Però sa meglio di me che in politica sono questioni di momenti in cui uno si sente più o meno forte. In questo momento Renzi si sente fortissimo per i voti che ha ottenuto alle europee e dice: beh, finché ero prima del voto non volevate parlare, adesso che sono forte decido io quando, come, perché. No, ma ce lo dicano, io sto dicendo esclusivamente, noi abbiamo fatto una richiesta, la nostra legge elettorale ha le preferenze, quindi crediamo di poter dare un grosso contributo a questo dibattito sulla legge elettorale. Loro non ci hanno neanche risposto. Ora, al di là di tutto, dopo che hanno detto che non avevano scelta e per questo dovevano fare per forza questa legge elettorale senza preferenze con Berlusconi, noi stiamo dicendo andiamo ad un tavolo e confrontiamoci e dialoghiamo, io credo che almeno una risposta ci debba essere. Da questo punto di vista, questo temporeggiamento è un temporeggiamento che auspichiamo possa risolversi quantomeno con una risposta ufficiale del Presidente del Consiglio, del Ministro, anche perché in questo, devo dire la verità, una buona parte della stampa non sta facendo notare che è spudorato il temporeggiamento, perché forse sta cercando di capire se fare le riforme con altri, come dire, se servono, se riusciamo a fare la riforma con Berlusconi, forse anche con la Lega, forse non serve più il Movimento 5 Stelle. Questa è una scelta politica. Questa è una scelta politica, quindi quale miglior modo se non comunicarcelo? Io credo che noi abbiamo fatto un percorso abbastanza ufficiale e trasparente, abbiamo chiesto che si facesse un incontro, l'incontro in streaming, discutiamo nel merito una legge elettorale e vediamo quali sono i contributi che si possono apportare. Se dall'altra parte non c'è una risposta, si sta facendo una scelta politica, però credo che una risposta almeno ci debba essere. Eccoci ancora con Luigi Di Maio, vicepresidente della Camera del Movimento 5 Stelle. Le chiedo questo, quell'apertura a Renzi, quella lettera, è stata anche criticata però da molti della base del Movimento 5 Stelle, a dire come mai in questo caso non è stata consultata la rete per dire dobbiamo o no parlare con Renzi? Ma la rete è consultata in quanto dopo l'incontro, questo tavolo di trattativa, qualora ci sarà sulla legge elettorale, tutta la risultante della trattativa sarà comunque ratificata dai nostri iscritti. Questa è anche un'ulteriore innovazione politica che portiamo nel sistema politico italiano, cioè il tavolo di trattativa con un'altra forza politica viene comunque ratificato, confermato dai nostri iscritti. C'è da dire però qual è il nostro spirito in questo momento. Noi abbiamo creduto per un anno di poter buttare giù, tra virgolette, il governo Renzi con il voto alle europee. Ci avevamo creduto, molti parlavano di testa a testa, poi abbiamo sancito con le ultime elezioni europee che dobbiamo smetterla di seguire sondaggisti e analisti perché non ne azzeccano una. Dopo le elezioni europee adesso noi prendiamo atto che c'è una nuova prospettiva politica, cioè di legislatura, e in questa legislatura noi vogliamo aprire su alcuni temi fondamentali, restando sempre all'opposizione e opponendoci a quelle che sono le cose che non condividiamo e che non fanno bene ai cittadini italiani. Insomma, per esempio la TASI. Certo, vi siete un po' resi conto che il fronte duro e la lotta dura non ha portato risultati, diciamo. Ma no, io credo che era un percorso, è un percorso che noi continuiamo a fare. Noi andiamo comunque a sostituire questa classe politica al governo di questo paese. Però se tu devi stare 4 anni qui, oltre a fare l'opposizione, che negli ultimi 20 anni non si era mai vista e da un anno si vede, oltre a questo noi crediamo di poter portare un contributo con una legge elettorale che ha le preferenze, è stata votata da centinaia di migliaia di cittadini, evita gli impresentabili, secondo me sono contributi validi ad una legge elettorale che dall'altra parte non ha le preferenze e permette a un candidato di candidarsi praticamente in tutta Italia, favorendo il carrierismo politico. Quindi su questo io credo che ci si debba quantomeno confrontare, poi se dall'altra parte ci vogliono dire no. Beh, chiaro, ce lo dica. Ma voi avete dato un limite, cioè, per questo no, nel senso, cioè, considerate a questo punto che questo incontro per voi è saltato, non c'è. Ma non no. Cioè, cos'è, un invito aperto? Ci aspettiamo in questa settimana, entro questa noi la richiesta ufficiale l'abbiamo inviata domenica, quindi ci aspettiamo questa settimana una risposta ufficiale. Dopodiché? Poi e nella risposta vedremo cosa c'è scritto. No, certo, dopodiché, nel senso, se non arriva la risposta, siamo a giovedì, non è detto che uno debba rispondere per forza. Però in questo caso sarebbe comunque un atto politico, ma non c'è nessun ultimatum, vorrei specificare. Noi in questa fase vogliamo dare un contributo, secondo me, ad un tema che dall'altra parte vede una legge elettorale non degnamente rappresentativa degli italiani. Però Di Maio, perché oggi i giornali scrivono, alcuni giornali, è fatta, ormai siamo a un passo, siamo all'ultimo miglio, Berlusconi, Renzi è fatta, addirittura titola il giornale, cioè perché i giornali raccontano secondo lei che mi pare che l'abbia detto Renzi ieri, quindi... appunto, no, certo, vabbè, ma era fatta anche 3 mesi fa quando dicevano che, quindi secondo lei non è fatta, non ma è così? Io credo stando alle dichiarazioni di Berlusconi ieri in conferenza stampa sembra che ci siano tante cose su cui non sono d'accordo, ma io non voglio parlare degli altri, io voglio parlare del fatto che l'Italicum doveva arrivare in aula il 28 gennaio e doveva finire entro fine marzo, poi si è detto che doveva essere modificato al Senato, quindi l'Italicum in questo momento, anche quando approderà in aula al Senato la legge elettorale, comunque dovrà essere modificata perché non sono d'accordo i due alleati su quel testo. Se noi facciamo un tavolo di trattativa con noi su una legge elettorale, una volta che abbiamo deciso e definito quali sono i punti, la portiamo in aula e la approviamo. Noi vogliamo dare un'accelerata a questo tema che è impantanato. Ma quella, la vostra legge elettorale, no, Renzi, io non dico la nostra, quella base lì non piace a Renzi, dice è un qualcosa ci dica, che non... ci dicano quali sono le proposte di modifica e vediamo quali... Io non credo che non gli piacciono le preferenze, ci dicano quali sono le proposte di modifica e ragioniamo insieme. Attendete, insomma. Le chiedo questo invece: all'interno del Movimento 5 Stelle, qual è l'ultima volta che ha sentito Beppe Grillo? Perché ieri raccontavano su Repubblica che Beppe Grillo si è un po' isolato dopo la campagna elettorale, insomma, si è preso una lunga vacanza e non lo sentite più, è vero? No, noi con Beppe ci sentiamo spesso, anche con Gianroberto Casaleggio, perché comunque ci sono delle cose da coordinare. Lei capisce che gran parte delle informazioni che anche la stampa sente come ufficiali vengono dal blog, quindi quando noi abbiamo bisogno di utilizzare il blog per dare una comunicazione forte, lo utilizziamo, quindi c'è un coordinamento continuo, però vorrei specificare, non c'è nessun cerchio magico. Perché hanno detto che lei è il capo, sì, insieme al figlio, sì, di Casaleggio, del nuovo, sì, cerchio oggi, magico. Io non ho ancora aperto i giornali, però oggi potrebbe anche essere che sono il figlio illegittimo di Casaleggio, vista la degenerazione e la fantasia che fanno su di me. Io credo soltanto che in questo momento ci sentiamo con loro per pianificare alcune scelte politiche che stiamo portando avanti. Ovviamente non siamo un gruppo ristretto, tutti chiamano a Milano e si organizzano con, certo, lo staff per coordinare. Quindi i lavori. Quindi non c'è una nuova fase del Movimento 5 Stelle in cui Casaleggio e Grillo contano meno e contano di più i parlamentari? Io credo che ci sia una nuova fase del Movimento 5 Stelle dal punto di vista delle azioni politiche. Credo che sia indiscutibile, visto e considerato anche gli eventi di questi giorni. Noi ci andiamo a sedere ad un tavolo di trattativa, lo abbiamo ammesso anche con molta umiltà, abbiamo detto dopo il risultato delle europee noi crediamo che adesso la prospettiva politica cambi, noi restiamo opposizione, vogliamo andare al governo, ma intanto portiamo a casa un risultato o più risultati, che tra l'altro hanno visto la partecipazione di centinaia di migliaia di cittadini nello scrivere questa legge, sì, elettorale. Questa è una fase politica evolutiva del movimento, e comunque la garanzia è che tutte queste trattative comunque saranno ratificate dai nostri iscritti, confermate dai nostri iscritti, e quindi potranno anche darci un segnale negativo o positivo. No, ma è chiaro. L'ultima domanda sì, è questa, vicepresidente: che cosa c'è da gioire se un giornale, nello specifico l'Unità, rischia di chiudere? Ma io credo semplicemente che non c'è da gioire, ma c'è sicuramente da considerare che un giornale che è un prodotto di mercato, se ha preso per anni milioni di euro di finanziamento pubblico e non appena glieli togli comincia a morire, probabilmente è un giornale che sul mercato non ci stava. Un giornale funziona se c'è un lettore che lo compra, nel momento in cui il lettore non c'è più il giornale chiude. Però Grillo ha detto, è un'ottima notizia, l'abbiamo detto 6-7 anni fa. Noi, sì, l'abbiamo detto 6-7 anni fa, perché con il finanziamento pubblico ai giornali, che è discrezionale, alla fine si sono finanziate delle testate che hanno orientato le scelte politiche degli italiani per troppi anni. Quando è entrata in gioco la rete, quando è entrato in gioco internet, i giornali e anche la raccolta economica per gli sponsor si sono spostati in rete, e lì c'è più pluralità per quanto ci riguarda. L'abbiamo sempre detto, e adesso ci sono dei giornali che senza finanziamento pubblico stanno chiudendo. Tra l'altro le ricordo che l'Unità è il giornale che titolò Grillo contro i terremotati, quando noi decidemmo di votare astenuti su un provvedimento molto importante che riguardava che riguardava alcune scelte economiche del paese, che poi si stanno pagando adesso con la TASI. Beh, allora utilizzarono dei titoli strumentali, certo, contro di noi, quindi va bene, parlando, insomma, di un giornale poco corretto, poco amico. Va bene, intanto la ringrazio, devo chiudere. Luigi Di Maio, vicepresidente della Camera del Movimento 5 Stelle, ci troviamo domattina alle 6:30. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica. 24 mattino.